un segreto di cui sono a conoscenza solo in pochi, chiaro? Sei pronto? Le donne adorano le parole. Devi dirle quello che provi. Devi farlo. Dillo ancora. Dillo in vari modi. Sì, scrivilo in una poesia, in una lettera che accompagna dei fiori. Scrivilo su un albero, sul cemento di un marciapiede. Tatualo su un braccio. Devi dirle la verità. Dille ogni cosa, dille tutto. Impara a cantarlo. Timido al quadrato. Ogni volta che ho incontrato bellezze come te che m'avrebbero incastrato. Lo sai, ma gli occhi non mentono. No, i tuoi parlano chiaro e le mie mani ancora tremano. Ancora, mentre mi stai parlando, sussurrando parole dolci che a fatica io comprendo. Ammetto, mi sono innamorato ancora. Sbagliare nella mia natura. Ho bisogno di una cura. Sei, sono un malato cronico. Ci sono ricaduto, sono un caso clinico. L'ennesimo. Sento un brivido. Sei tu che ti stai avvicinando. Mi manca il fiato. Sei tu che ti stai allontanando. Ma come? Mentre delirio nella notte, mi senti urlare. Sei tu la sola che voglio amare. Tu la sola. Ma fortunatamente sei la medicina. Sì. Inizierò la cura avendoti sempre vicina. Tu sei la favola che non mi hanno raccontato. Il sogno nel cassetto di un armadio incantato, l'oggetto dei desideri non ancora inventato, l'ottava meraviglia di un mondo fatato. Voglio passare il resto della vita con te, vorrei che il resto della vita iniziasse oggi con me. Tutto è sublime, star con te accende le mie rime, in amore sono le prime. Come faccio a resisterti, se un sogno ad occhi aperti, ho inseguito incubi, questi sono i referti. Se eri una droga, potevo disintossicarmi, ma sei la medicina, potrò curarmi. Curami. Tu sei l'aria, di cui non posso fare a meno, come il sole dopo un'acquazzone del suo arcobaleno. Sei la favola da scrivere, il sogno nel cassetto, sexy da impazzire, il punto G del mio intelletto. Quindi, godo, quando mi sorrido in questo modo, quindi sudo quando col tuo sguardo mi metti a nudo. Io vivo per te immaginando il mio futuro. Lo sai che sto scappando da un passato duro. Perciò tu sei la favola che non mi hanno raccontato. Il sogno nel cassetto di un armadio incantato. L'oggetto dei desideri non ancora inventato. L'ottava meraviglia di un mondo fatato. Abracadabra, sono caduto sotto l'effetto magico delle tue labbra. Ancora, ed ora che nel cuore tu hai lasciato il segno, farò tutto per te. Sì, ti donerò il mio regno. Seguimi. C'è una calamita che ti attira alla mia vita. Qua, con i tuoi baci cura ogni mia ferita. E poi quel tuo sorriso, qualcuno aveva già deciso di farci incontrare per mandarmi in paradiso. Su, come un gabbiano spiega le sue ali in volo. Io cerco di spiegarti quello che provo. Non lasciarmi solo. Resto lì imbalato a guardarti come in un poster. Il mio silenzio è degli innocenti come Jodie Foster. Non so che dire, basta. È da un po' che sono a dieta. Con te voglio trasgredire. Quindi, come Lorenzo, ho fatto scelte senza scegliere che scelta fare. Ora, dona alla medicina un altro caso da studiare. Tu sei la favola che non mi hanno raccontato. Il sogno nel cassetto di un armadio incantato. L'oggetto dei desideri non ancora inventato. L'ottava meraviglia di un mondo fatato.